24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Paolo Piacenza e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. La nostra apertura è dedicata oggi al nodo immigrazione e al futuro del trattato di Schengen. Dopo la Francia anche la Danimarca infatti ha rafforzato i controlli alle frontiere, mentre la Commissione Europea, Italia e Germania ribadiscono che Schengen non si tocca. Parliamo poi del debito greco e dello stop del Fondo Monetario Internazionale all'ipotesi di ristrutturazione, ma anche del terremoto in Spagna. In primo piano anche la condanna dell'ex nazista Demjanjuk, in Germania e lo sport con il Giro di Italia, vittoria spagnola, in rosa resta l'olandese Wening. Il tema dell'immigrazione e del controllo delle frontiere ha tenuto banco al Consiglio europeo dei ministri dell'interno. Sull'incontro ha pesato la decisione danese di rafforzare i controlli doganali. Picconata contro l'edificio comunitario oppure democrazia al lavoro? La decisione presa dalla Danimarca di rinforzare i controlli doganali con i suoi vicini d'Europa ha suscitato una protesta della politica attraverso l'intero spazio comune, che non si spiegherebbe se in gioco ci fossero davvero solo i controlli sui camion. La questione riguarda piuttosto una certa visione dell'Europa che oggi si afferma anche nella ricca Danimarca. L'ispiratrice dell'iniziativa è la leader del Partito Popolare danese, Pia Kirsgaard, conservatrice, euroscettica, protagonista di un accordo opt-out che conserva la corona, intesa come valuta, al Regno di Danimarca, e di una decennale battaglia contro il multiculturalismo che ha assunto una dimensione internazionale quando 5 anni fa è esplosa la crisi delle caricature di Maometto. La timida reazione dei socialdemocratici e la fermezza della Kirsgaard di fronte alle aggressioni verbali e non solo che l'estremismo islamico ha lanciato contro il paese ha rafforzato l'autorevolezza del DPP, che è forte anche di una politica tesa a escludere gli immigrati dal pranzo di Babette della politica sociale danese. L'anno successivo ha conquistato il 14% dei voti, diventando chiave di volta dell'alleanza di governo con i liberali di Lars Rasmussen. Insomma, poiché anche in Europa tutto il mondo è paese, ora che si avvicinano le elezioni d'autunno, la Kirsgaard impone il suo segno, magari per rassicurare gli elettori che guardano in TV gli sbarchi sulla costa sud dell'Europa e si chiedono quale sarà il capolinea del loro viaggio della speranza. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. La presidenza dell'Unione Europea ha ribadito che l'accordo di Schengen è una grande conquista che va tutelata, spiegando che i controlli temporanei debbono poter essere reintrodotti ma senza decisioni unilaterali che rischiano di far scattare reazioni a catena. I commissari europei Viviane Reding, Giustizia e Cecilia Malmström, Affari Interni, con un articolo su Liberazione hanno ribadito che non c'è Europa senza Schengen. Anche la Germania ha difeso il trattato e l'Italia, con il ministro dell'Interno Maroni, si è detta d'accordo con la Commissione. Ma Maroni ha anche criticato l'inazione europea sull'immigrazione. Attuare, dare attuazione per esempio alle decisioni prese nell'ultimo consiglio GAI un mese fa, nel corso del quale si decise che Frontex avrebbe dovuto iniziare immediatamente i negoziati con la Tunisia per fare il pattugliamento congiunto. È passato un mese e non è ancora successo nulla. Basterebbe che si desse attuazione concreta alle decisioni prese e purtroppo non succede. Nell'Eurozona sussiste un rischio tangibile di contagio della crisi del debito sovrano, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto regionale dedicato all'Europa. Il fondo parla di pericoli anche per Irlanda e Portogallo e definisce situazioni delicate quelle di Spagna, Belgio e Italia. Il Fondo Monetario Internazionale continua a respingere la possibilità di una ristrutturazione del debito greco. Parlando a Francoforte, il responsabile per gli affari europei dell'FMI, Antonio Borges, ha spiegato che in questo momento non c'è la necessità di una rinegoziazione debitoria in Grecia. Ha precisato che il piano di risanamento dei conti, oggetto in questi giorni di una valutazione da parte degli uomini del fondo, rimane il punto di riferimento della politica economica nel paese mediterraneo in crisi finanziaria. Nella sua conferenza stampa, Borges ha messo però l'accento sulla necessità per l'Europa di mettere mano al sistema bancario, ancora fragile, anche per evitare un rischio contagio dai paesi periferici agli stati membri più solidi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Il leader del partito finlandese degli euroscettici, Veri Finlandesi, Timo Soini, ha dichiarato che non parteciperà ai colloqui per formare la coalizione di governo dopo che gli altri partiti hanno posto come condizione per i negoziati l'ok ai programmi di salvataggio europei. La Commissione europea, per bocca del portavoce del commissario agli affari economici e monetari, Olli Rehn, ha espresso apprezzamento per la decisione finlandese di sostenere il programma di aiuti al Portogallo. Nuove conferme sul ruolo di candidato favorito per la presidenza della Banca Centrale Europea assunto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha confermato che Mario Draghi è favorito, anche se non è esclusa la possibilità di altri candidati sul tavolo dell'Eurogruppo. Giudizio positivo su Draghi anche dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Giornata con il segno meno per le principali borse europee, frenate già in apertura dai titoli delle materie prime, dai dati macroeconomici americani lievemente al di sotto delle attese. Londra ha fatto segnare meno 0,52%, Parigi meno 0,86%, Francoforte meno 0,68%, mentre Milano ha chiuso a meno 1,11%. Il nuovo brusco calo del petrolio e i timori per la delicata situazione finanziaria della Grecia hanno schiacciato le borse europee, che così hanno chiuso in calo. A Milano il FTSE MIB ha perso l'1,11%. TOTS però, salendo dell'1,6%, ha aggiornato nuovi massimi storici, spinta dai conti dei primi tre mesi 2011 con una crescita a doppia cifra dei ricavi e dei margini. L'effetto buona trimestrale ha favorito anche Campari, più 2,4%. Per contro sono andate male le Fiat, meno 2,39%, risentendo della pressione dei realizzi dopo la buona performance dell'ultimo mese. A incoraggiare gli ordini in vendita è stata anche la notizia che nel 2017 non sarà rinnovata la joint venture Sevel Nord con Peugeot per i veicoli commerciali. Sul finale si sono risvogliate le Fonsai, più 2,6%, mentre sono stati deboli le azioni del settore energetico, con Eni e Saipem in calo di oltre l'1%. Impregilo ha vantato un rialzo del 3,13%, festeggiando la notizia che il Tribunale del Riesame di Napoli, in sede di appello, ha respinto una nuova azione cautelare sul dossier rifiuti. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Libia, dopo intensi combattimenti, gli insorti hanno conquistato l'aeroporto di Misurata, la strategica città est di Tripoli, assediata da oltre due mesi dalle forze governative. Cristina Carpinelli ha sentito l'unico giornalista occidentale presente, un giornalista spagnolo. Alberto Arce è un giornalista spagnolo freelance. Si trova a Misurata da giorni e vive in una casa di una famiglia che è rimasta nella città. Lo abbiamo raggiunto in maniera rocambolesca perché il suo racconto ha un peso in una guerra dove tutto appare lontano. Sì, durante le ultime 24 ore, los rebeldes habían desatado. Nelle ultime 24 ore, ci racconta Arce, i ribelli hanno messo in atto un'offensiva molto intensa nel sud della città, in quattro punti: l'aeroporto, l'Accademia del Volo, il mercato africano e la prigione di Misurata. Ho capito, continua Arce, che la città tornava in mano ai ribelli, perché a un certo punto gli spari di battaglia si sono trasformati in spari di festeggiamento. Allora sono corso verso l'aeroporto e sono entrato con i ribelli. Ho potuto vedere i generali abbandonare la città e lasciare soli i militari che hanno provato a nascondersi nelle case e poi si sono arresi. Ora posso confermarvi che il 100% della città di Misurata è libero. Arce ci racconta anche che i ribelli sono persone normali, volontari, assolutamente disorganizzati e scoordinati, che fanno quello che riescono per liberare la città. Poi gli chiediamo allora di raccontarci come vive chi è rimasto a Misurata. Lo stanno passando molto male, a fin de cuentas, male, risponde il giornalista spagnolo. Male, per strada vediamo solo combattenti. Donne e bambini sono chiusi in casa da quasi due mesi e poi manca tutto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Spagna c'è ancora paura dopo il terremoto nella città di Lorca. Sono stati proclamati tre giorni di lutto. È pomeriggio inoltrato a Lorca, quando la terra trema. Così lo racconta la TV spagnola, che trasmette le immagini raccolte da una emittente che per caso si trovava nei pressi del campanile della chiesa di San Diego, quando è venuto giù. Le scosse si ripetono, la più forte di magnitudo 5.3. Le immagini mostrano edifici crollati, macchine sepolte dalle macerie e tanta gente per le strade. La protezione civile ha chiesto alla popolazione di tenersi lontana dai palazzi, anche perché, secondo l'Istituto Geografico Nazionale, la scossa potrebbe essere stata di preavviso e la terra potrebbe tremare di nuovo, forse con maggiore intensità. per la notte ci si è organizzati alla meglio, tende e sacchi a pelo sull'erba dei parchi, nei cortili delle scuole, nelle piazze. Per alcuni è solo una precauzione, per altri una necessità, perché la propria casa non c'è più. Mi casa sta tutto nel suolo. In segno di rispetto non si farà campagna elettorale per le amministrative regionali del 22 giugno. La decisione è stata presa di comune accordo dal premier Zapatero e dal leader dell'opposizione Rajoy. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri la Germania ha scritto una nuova pagina nella lunga battaglia di giustizia sui crimini della Shoah. Una pagina che però ha lasciato alcune perplessità. La ricostruzione di Paolo Riva. Condannato ma subito liberato per l'età avanzata. È questo l'esito del primo processo in Germania contro un non tedesco, complice esecutore della Shoah. Il 91enne di origine ucraina, John Demjanjuk, meglio conosciuto come il boia di Sobibor, è stato condannato dal Tribunale di Monaco a 5 anni di reclusione per concorso attivo nell'assassinio di almeno 28.060 ebrei, ma è stato rilasciato in considerazione della sua età e dei 2 anni di detenzione già scontati in attesa del giudizio. La decisione del tribunale tiene anche conto del ricorso presentato dalla difesa presso la Cassazione, tuttavia lascia perplessi i rappresentanti del centro Simon Wiesenthal per la caccia ai crimini nazisti. Demjanjuk in ogni caso non può lasciare il paese. Nato in Ucraina col nome di Ivan, era stato soldato dell'Armata Rossa, fatto prigioniero dalla Wehrmacht durante l'attacco alla Russia, divenne volontario e ausiliario straniero delle SS, come provato nel corso del processo. In questa veste, ha ricordato il giudice Ralf Alt, leggendo la sentenza, l'imputato fu una parte della macchina dello sterminio e si preoccupò che le vittime non avessero possibilità di fuga e finissero nelle camere a gas. Ora parliamo della Mona Lisa. I resti di 2 cripte sono stati portati alla luce nella seconda giornata di scavi nella chiesa maggiore dell'ex convento di Sant'Orsola a Firenze. Una di esse potrebbe celare i resti di Lisa Gherardini del Giocondo, la modella di Leonardo per la Gioconda oggi conservata al Louvre. L'ipotesi è stata avanzata dal Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, Culturali e Ambientali, che ha organizzato la ricerca per trovare la sepoltura di Mona Lisa. Chiudiamo con lo sport e con le ultime novità dal Giro d'Italia. Lo spagnolo Francisco Ventoso ha vinto la sesta tappa, 216 km da Orvieto a Fiuggi. L'olandese Peter Wening della Rabobank ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Il racconto di Pier Augusto Stagi. C'è stata una bellissima volata, un finale degli ultimi 500 metri veramente da fiato sospeso, devo dire che l'immagine di questa tappa è quella di Alessandro Petacchi che arriva letteralmente senza fiato e con le gambe in croce, in realtà battuto, secondo alle spalle dello spagnolo Francisco Ventoso, terzo Roberto Ferrari, quarto Danilo Luca che è quello che fa saltare un po' il banco, a 500 metri cerca in tutte le maniere di aiutare il gruppo, fa saltare i piani di Petacchi lo rincorre e arriva logicamente senza fiato e senza gambe. Domani grande attesa per la settima frazione, la Maddaloni Montevergine di Mercogliano di 110 km con il primo vero arrivo in salita della Corsa Rosa. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, grazie per l'ascolto, ancora una buona giornata da Paolo Piacenza. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.